sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Da quel giorno la mia vita continua in maniera, direi, regolare, fra lavoro, droghe e prostitute. Ma per qualche strana ragione, quando torno in quella nota strada della città, torno sempre dalla stessa ragazza. Buongiorno, dottor Caccia. Ho deciso, dottor Caccia, tra l'altro, ci teneva a mandarmi una mail, Sandro, ben precisa. Sandro è un nome di fantasia, lo dico subito, e adesso capirete il perché. Buongiorno, dottor Caccia, ho deciso di scriverle la mia storia. Le chiedo una cortesia, qualora decidesse di raccontarla, le chiederei di utilizzare nomi e luoghi di fantasia. Come leggerà in seguito, la mia è una storia particolare, un po' forte, ma è una storia che mi ha cambiato la vita. Ho molti colleghi che ascoltano questa radio e la mia storia non ho mai avuto il coraggio di condividerla con nessuno. Voilà! Benvenuti a tutti, sono le 16:10, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma si chiama Voi Siete Qui. Prima di cominciare un disclaimer per l'ascoltatrice che è venuta anche al Salone Nautico di Genova, che è mamma e che fa sentire il programma la figlia solo quando le puntate sono giuste per lei e sostanzialmente le censura. Ecco, no. Questa no, proprio per lei no. Se invece ci sono delle mamme, diciamo, coraggiose, che hanno voglia di passare un'oretta poi a spiegare che cos'è il mestiere della prostituzione e perché capita che esista da tantissimo tempo e perché capita soprattutto che alcuni uomini lo sfruttino, ecco, questa è la puntata per voi. Mi suggeriva giustamente Tiziano, abbiamo fatto una ricerca poco prima di entrare in onda, perché la puntata la chiama alla ricerca, intendo dire. In Italia è un dato di un paio d'anni fa. In Italia sono stimate in 9 milioni le persone, nella fattispecie maschi, che sostanzialmente vanno con delle professioniste del sesso, e ho detto professioniste del sesso per non dire prostitute, perché mi sembrava un po' meno pruriginoso, ma d'ora in avanti dirò solo prostitute, non è offensivo, è semplicemente una definizione. Quello dei clienti della prostituzione di oggi, leggo giustamente questo al volo, questo piccolo articolo, tra l'altro, che è tratto dal progetto Vittime del gruppo Abele, che nel gennaio del 2014 ha fatto una ricerca e ci ha fatto un convegno in cui ne ha parlato. Quello dei clienti della prostituzione ad oggi resta un mondo dai contorni vaghi e indefiniti. A cercare di scandagliarlo è proprio il gruppo Abele, perdonatemi. Sono uomini di ogni ceto, provenienza geografica e fascia d'età. Spesso sono istruiti, tanto che al crescere del grado di istruzione aumenta anche la domanda. Molti di loro continuano a cercare rapporti in strada, mentre una parte altrettanto consistente ormai lo fa nell'anonimato offerto dal web. Ok, siete 9 milioni là fuori e abbiamo un numero di telefono. 800 24 0024. Non facciamo informazione, non ci interessano i nomi, non ci interessano i dettagli, non vogliamo fare un'indagine o un'inchiesta, vogliamo delle storie. Sandro, che chiaramente è un nome di fantasia, e probabilmente chiameremo Sandro tutti quelli che chiameranno l'800 24 0024. Vi dicevo, Sandro evidentemente in un momento cardine della sua vita ha deciso di raccontare la storia di una ragazza che nella fattispecie fa questo mestiere, fa la prostituta, che di fatto gli cambia la vita, grazie alla quale la sua vita migliora. Quello che vi chiediamo è se avete avuto delle esperienze di questo tipo, se ancora vi capita di frequentare delle donne che fanno questo mestiere. 800 24 0024, ci raccontate quando, come, perché, se lo avete fatto, se lo fate ancora e cosa succede in quel momento. Nel senso che cosa succede lo sappiamo, ma cosa succede oltre a quello per cui andate con donne che fanno questo mestiere? 800 24 0024. Ripeto, garantiamo ovviamente l'anonimato, non vi chiamiamo per nome, utilizzeremo il nome Sandro per andare lisci e andare diretti al punto. 800 24 0024. Noi facciamo quello che facciamo tutti i giorni, raccontiamo una storia. Se voi volete condividerla con noi, il numero di telefono è sempre quello lì, ma questa è la storia di Sandro. Bene, iniziamo. Mi chiamo Sandro, ho 38 anni, mi occupo di marketing per una multinazionale che opera in Italia. Ho una vita sociale abbastanza attiva, ritengo di essere una persona piacevole. Succede, non molto tempo fa, che in un periodo di forte debolezza della mia vita e di crisi nel rapporto con mia moglie, inizi a fare uso di droghe, soprattutto di cocaina. E di conseguenza all'uso di cocaina una mattina decido di andare a prostitute. Mi reco quindi in una nota strada di prostituzione della mia città. Mi fermo da una ragazza che mi sembra carina, ma al momento non era importante. La faccio salire in macchina, consumo il rapporto a pagamento e vado via. La mia vita continua in maniera, diciamo, regolare fra lavoro, droghe e prostitute. Ma per qualche strana ragione, quando torno nella nota strada citata, torno sempre dalla stessa ragazza. Inizia una frequentazione fatta di 2-3 volte alla settimana. Il suo nome è Maddalena e il nostro rapporto inizia ad essere sempre più confidenziale. Non ci limitiamo più al semplice rapporto, ma lei si ferma a parlare con me. Facciamo battute, scherziamo, insomma, come fossimo una coppia. E questa ragazza mi entra sempre di più nella testa. Dopo circa 2 mesi di questa frequentazione, una mattina vado da lei. Lei sale in macchina, perdiamo un po' di tempo a chiacchierare. E quando lei si prepara per il solito rapporto, io le dico: senti, perché non molli tutto e vieni a vivere con me? Ammetto che io ero convinto che con una proposta del genere, fatta da un ragazzo italiano che propone a una prostituta di lasciare il marciapiede, Maddalena mi sarebbe saltata il collo per la gioia. E invece no. Lei diventa ad un tratto molto seria e inizia a raccontarmi la sua storia. Mi racconta che ha 22 anni, è rumena e non ha la mamma, o la maman, come la chiama lei. Mi dice che in Romania non c'è lavoro, che è stata sposa a 16 anni, ma non è andata bene. Nel suo italiano imperfetto questa ragazza continua a raccontare. Dice che oltre al papà ha 2 fratelli. Lei è già stata in Italia, vicino a Roma, con uno dei fratelli. Per un signore che aveva le pecore, mi dice. Dice che il fratello si occupava degli animali e lei delle pulizie domestiche. Ma questo signore non li pagava e a stento potevano mangiare. Quindi il fratello è tornato in Romania e lei, tramite una sua amica rumena, ha iniziato a fare la prostituta a Bologna. Continua a raccontare, è un fiume in piena. Mi dice che per lei la vita è stata difficile, ma che ora non può lasciare il lavoro, perché ogni settimana deve mandare i soldi in Romania. Inoltre deve pagarsi l'albergo, perché lei non ha una casa dove vivere. Mi dice che deve pensare al papà e ai fratelli che non hanno la mamma. Allora io insisto, le dico che conosco tanta gente e che le darei io una mano a trovare un lavoro normale. Così lei può continuare a mandare i soldi in Romania. Ma lei prosegue dicendo che non può essere fidanzata con me in Italia, perché lei è una prostituta e questo non va bene. E mi dice: se noi usciamo la sera e c'è qualche cliente che mi riconosce, questo non va bene per te. E poi continua, mi dice che lei farà questo lavoro ancora per un po', poi tornerà in Romania, dove nessuno sa il lavoro che fa, e lì troverà un fidanzato. Io insisto, dico che questo è un problema mio e non suo. Ma lei continua dicendomi: Sandro, tu sei un bravo ragazzo e non va bene per te stare con una prostituta. Tu non devi più andare a prostitute. Io insisto, dico che non è così facile, le racconto che sto attraversando un momento difficile della mia vita. E lei mi blocca dicendomi: ricordati che le gambe vanno dove la testa vuole. E poi continua dicendo che lei non può dire bugie a un ragazzo che vuole darle il cuore, perché Dio la guarda, perché Dio ci guarda. A quel punto vado via. La ragazza mi chiede se posso pagarla comunque, perché è stata 2 ore con me e non ha potuto lavorare. Vado a casa e inizio a piangere. Lo faccio pensando alle parole che una ragazza di 22 anni mi ha detto quella mattina, a come lei fra mille difficoltà stia ricostruendo la sua vita e il suo futuro, e di come io invece sto buttando via una vita felice. Da quel giorno, da quella lezione, io non ho fatto più uso di droghe e sono tornato a vivere con mia moglie. Vorrei concludere la mia storia dicendo che non so se Dio esiste davvero, ma se esiste, quel giorno mi ha parlato per bocca di una sconosciuta di 22 anni, che mi ha detto che la mia vita stava prendendo una direzione sbagliata. Sono tornato in quella strada e quella ragazza è ancora là. Non ho avuto il coraggio di fermarmi, né da lei né da altre. Ma auguro a quella ragazza lo stesso bene che lei ha fatto a me. Questa è la mia storia, la storia di un incontro con una donna di 22 anni che ti cambia la vita, che per la prima volta decido di condividere. Non credo che la mia storia possa servire da lezione a qualcuno, ma mi piace comunque l'idea che venga raccontata. Dance me to your beauty, like a burning violin. Dance me through the panic, till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end. Fine, dalla storia di Sandro ho capito che primo, la droga fa sempre piuttosto schifo. Secondo, ognuno di noi si crea delle vite diverse in luoghi diversi e ne fa un po' quello che vuole. Terzo, dare un nome alle cose o alle attività delle persone non sempre aiuta a definirle. Quarto, giudicare è la prima cosa che mi viene in mente, ma conviene sempre fare prima un bel respiro. E soprattutto, quinto, anche le persone che sembrano più comuni possono avere dei grandi segreti. 349-238-6666. Oggi facciamo una cosa che non facciamo da un po' di tempo ed è apriamo i nostri microfoni perché, come l'avrete capito, Sandro, che è l'autore della storia di oggi, vuole rimanere anonimo e quindi non c'è la telefonata con lui, però abbiamo delle telefonate di persone che in qualche modo hanno vissuto un'esperienza più o meno simile. Intanto arrivano messaggi, vabbè, discordanti sulla storia più bella o la storia più brutta che abbiamo raccontato e poi non capisco, ovviamente sarebbe onesto, non ho portato gli occhiali quindi non vedo niente, ovviamente sarebbe onesto specificarlo, ma non lo farete perché volete sdoganare il mestiere di prostituta come la nuova casalinga e il cliente come un gentiluomo. Non capisco sdoganare cosa e non capisco sdoganare cosa e specificare cosa, nel senso che non credo che debba essere sdoganato da qualcosa. Il mestiere 800240024. Andiamo a Trieste, ovviamente, da Sandro. Pronto Sandro? Sì, pronto. Ciao, buongiorno, come stai? Ma benone, però. Dove ti trovi in questo momento? Ma in questo momento mi trovo in un posteggio. Perfetto, nel senso che ti sei fermato per telefonare? Sì, mi sono fermato per telefonare. Ok, raccontami, raccontami la tua storia. Ma senti un po', allora io non ho mai fatto uso di droga perché la droga mi fa più paura della sedia elettrica. Voilà. A me è successo una ventina d'anni fa, anch'io mi ero separato, diciamo, avevo cominciato così a girondolare un po', a uscire, eccetera, eccetera. Sì. E ho trovato una ragazza che sul momento non avevo capito che era una prostituta. Ma dove l'avevi trovata? Cioè l'avevi incontrata in un posto, in un bar? No, stava camminando vicino al lungomare, io dovevo andare a vedere una barca perché dovevo comprare una barca, le avevo chiesto se sapeva dove era entrata del marina, uh-huh. E lei mi aveva dato l'indicazione, ma poi questa indicazione è praticamente venuta con me, okay. In questo marina, questo era, e da lì è cominciato, diciamo un po'. Io all'inizio non avevo neanche capito che era una prostituta, forse perché ero un po' tardo, forse perché... Tu eri un po' tardo? Ok. Sì, diciamo ma, che non ma ero per, molto scusami, bella. Sandro, ma per all'inizio intendi la prima mezz'ora o i primi giorni? No, e dico le prime due ore. Ecco. Ok, ok, cioè in quell'incontro lì, all'inizio di quell'incontro. Sì, sì, no, okay. Poi in quell'incontro si è capito. Ok. Sì. E questa ragazza era russa. Sì. No? E abbiamo cominciato così a parlare, mi ha raccontato, io guarda, sono dirò subito che sono molto prevenuto, anzi ero molto prevenuto, non credo niente a nessuno, io se non ci metto il dito non ci credo, e sì. Così, no? E poi però frequentando questa persona così, anche un po' marginalmente, non voglio entrare nei particolari, okay. Si sono reso conto che era una persona di una grandissima dignità, cioè loro vivevano questa situazione, un po' sapevano quello che facevano, sapevano che non avevano scelta, sapevano tutto quello a cui andavano incontro, sapevano che era per un periodo che poi sarebbe finito. Sarebbe finito, certo. Guarda, poi purtroppo devo salutarti che ho altre telefonate. Volevo chiederti, per quanto vi siete frequentati, grosso modo? A poco, un mese, un mese e mezzo. Okay. Ma nei quali vi siete frequentati, perdonami il termine, da fidanzati o come cliente? No, né come fidanzati né come cliente. Alla fine ci siamo frequentati, anch'io l'ho pagata per il tempo che perdeva con me. Amichevolmente, Sì, sì, io, ecco, posso dirti solo una cosa, sì. Il segno che ha lasciato in me, da quel momento sì. Io non ho più giudicato, oggi non giudico gli omosessuali, non giudico altre persone che hanno altre esperienze di vita, i drogati, eccetera. Sandro, ti ringrazio molto. Che ti portano in un posto dove tu non andresti mai, e tu ti trovi. Grazie mille, buona giornata. Okay, ciao Sandro, ciao. Poi specifichiamo, gli omosessuali è una cosa, fare la prostituta è un altro, cioè, l'omosessuale è un gusto semplicemente sessuale e basta, fare la prostituta è un mestiere, che è opinabile o meno. Andiamo a Roma da Sandro. Pronto Sandro? Sì, pronto. Ciao, come stai? Bene, tutto ok. Sandro, senti, c'ho un minutino, però tu me la racconti sì. La tua storia, per piacere. Certo. Io circa un anno fa, a dicembre, veramente avevo una grande crisi con sì. mia moglie. Sì. E niente, sono andato sul web e ho visto questa donna. Ok. E ho preso un appuntamento e sono andato. E ho fatto quello che si fa sì. di solito e poi non sono andato più per circa un mese, però ce l'avevo sempre nella testa questa donna sì. che era molto bella, insomma, era molto molto educata, insomma, abbastanza piacevole, insomma, piacevole. Okay. Sì, okay. Sì. Poi niente, io sono riandato e per ritrovarla non è stato facile, ma sono riuscito a ritrovarla. Mm-hmm. Niente, io sono completamente innamorato di questa donna, perché comunque è una donna molto responsabile, molto pulita, molto educata, cosa che non trovi facilmente. Ok. Sì, guarda, purtroppo devo chiudere, solo una cosa al volo. Stai ancora con tua moglie, no? È finita la storia? Con mia moglie è finita, però okay. ancora mi frequento con questa donna qui. Va bene. Siamo così, molto, molto amici, insomma. Ti faccio un sacco di in bocca al lupo e ti ringrazio per aver raccontato la tua storia. Grazie. Ciao, buona giornata, grazie. Grazie a lei. Ciao. Educatissimo, grazie a lei, mi ha detto. Oggi solo dottor Caccia e grazie a lei. Io ringrazio soprattutto Anita Aurelia Panizza-Riotti, oggi che è stata qui con noi, e averla di là dal vetro è stato un vero piacere. Grazie a Tiziano Bonini, grazie a Paolino Corleoni, grazie a tutti quelli che hanno scritto, sono tantissimi e non faccio in tempo a leggere i messaggi. Però, comunque, il grazie di oggi va soprattutto al nostro Sandro. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Maura, vivo in provincia di Modena, la storia di domani è la mia e parla di come una stessa scena, per quanto semplice, possa essere interpretata da diversi punti di vista. Questa è la mia storia e io sono qui.